Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Migranti, l'Austria invia i blindati al Brennero, l'Italia richiama l'ambasciatore di Vienna, Francia e Spagna intanto negano i porti, il Papa invoca solidarietà europea e c'è uno scontro proprio sul tema dell'immigrazione tra Juncker e Tajani. Fermare gli stranieri ci costerebbe 38 miliardi, dice il presidente dell'INPS. Boeri invoca l'introduzione del salario minimo, le premesse ci sono. La Corea lancia il suo primo missile intercontinentale. Possiamo arrivare ovunque, dice il regime. Trump si rivolge alla Cina, li fermi una volta per tutte. Qua lo Stato sono io, diceva uno dei boss dell''ndrangheta intercettati e arrestati questa mattina. 116 in manette in una delle operazioni più importanti. Telenovela quasi finita, o forse finita. Gigio Donnarumma avrebbe firmato col Milan 6 milioni a stagione. Nell'accordo ci sarebbe anche l'ingaggio del fratello come portiere di riserva. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, c'è anche la nostra pagina Facebook, così come la pagina Facebook di Radio 24, dalle quali andiamo anche in diretta video. Se volete potete anche scriverci e potete anche commentare là. In apertura dunque lo scontro sui migranti all'interno dell'Europa. Iniziamo da qua, iniziamo dalla Austria e poi andremo anche a quello che è avvenuto all'Europarlamento. Sergio Nava, buongiorno. Sì, buongiorno. Si fa dunque sempre più tesa la situazione sui migranti dopo che l'Austria questa mattina ha portato al Brennero quattro mezzi corazzati Pandur delle forze armate che dovrebbero essere impiegati nelle operazioni di controllo sull'immigrazione annunciate questa mattina in un'intervista dal ministro della difesa Doskozil. Il dispositivo potrebbe essere attivato nel giro di 3 giorni e comprende 750 militari. Ovviamente questo ha innescato la reazione della Farnesina, che ha convocato l'ambasciatore austriaco a Roma, René Pollitzer, mentre il ministro degli esteri austriaco, Sebastian Kurz, dice i preparativi per i controlli alla frontiera con l'Italia non sono solo giusti ma anche necessari. Noi ci prepariamo e difenderemo il nostro confine del Brennero se sarà necessario. Anche la Svizzera, intanto, più sommessamente ha annunciato che intende rafforzare il dispositivo di polizia lungo le frontiere con Piemonte e Lombardia, e il tutto mentre la pressione migratoria è in aumento alle frontiere europee, come dimostra l'assalto di 800 migranti al muro che circonda l'enclave spagnola di Ceuta, posizionata in territorio africano. La Guardia Civile iberica e la Gendarmeria marocchina hanno fermato il tentativo di assalto. Mentre l'Europa del Sud è sotto la forte pressione migratoria, nell'aula dell'Europarlamento è andata in scena una violenta lite tra il presidente della Commissione Juncker Care è quello dell'Europarlamento Tajani. Sentiamo. Le Parlement européen est ridicule, très ridicule. The Parliament is totally ridiculous. La prego, signor Presidente, di avere un atteggiamento più rispettoso nei confronti. Je vous en prie, monsieur le Président. Vous pouvez critiquer le Parlement, mais c'est pas la Commission qui doit contrôler le Parlement, c'est le Parlement qui doit contrôler la Commission. Je vous en prie, s'il vous plaît. You are ridiculous. Lo state ascoltando, insomma, Juncker si è giustamente risentito per la scarsa presenza di eurodeputati in aula, appena una trentina, ma ha volutamente cercato lo scontro definendo l'Europarlamento ridicolo. Di lì la risentita reazione di Tajani, che avete ascoltato poco fa la notizia che i due hanno avuto un chiarimento successivo. Proprio oggi la Commissione Europea presenterà nuove misure sull'emergenza migranti, misure immediatamente applicabili, quali l'incremento dei finanziamenti europei che serviranno da base per il vertice informale dei ministri dell'interno comunitari che inizia dopodomani a Tallinn. È tutto. E grazie Sergio Nava. Proprio a Tallinn l'Italia porterà il suo piano. Un codice di condotta per le navi delle organizzazioni non governative impegnate nei soccorsi dei migranti a largo delle coste nordafricane. È questa la novità che l'Italia si appresta a presentare nel vertice di Tallinn. Il piano predisposto dal ministro dell'Interno Minniti fissa una serie di regole che, se non rispettate, potrebbero far scattare anche il divieto di approdo nei porti italiani. Le imbarcazioni delle ONG dovranno essere sempre localizzabili con i sistemi satellitari, non dovranno operare nelle acque territoriali libiche e non potranno più segnalare la loro posizione ai gommoni carichi di migranti, né al telefono né con segnali luminosi. Le ONG saranno poi obbligate a fornire gli elenchi completi dei loro equipaggi e dei loro finanziatori. Tra le ipotesi c'è anche quella di vietare il trasbordo dei migranti sulle navi delle missioni europee, mentre il coordinamento di tutte le operazioni di soccorso in mare sarà affidato alla nostra Guardia Costiera. proprio oggi l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha fatto sapere che dall'inizio dell'anno i migranti arrivati in Europa via mare sono stati oltre 101.000 e quasi l'85% di loro è sbarcato in Italia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E di immigrazione torneremo a parlare più avanti nel corso del nostro giro per l'Italia. Stiamo cercando di raggiungere qualcuno nella zona del Brennero per farci raccontare come stanno andando le cose da una parte. Dall'altra parte torneremo in Veneto. Siamo andati a Cona, una delle grandi vergogne nazionali che spesso abbiamo raccontato da questi microfoni, in un luogo dove sono ammassate più di 1500 persone. Proprio accanto c'è Bagnoli di sopra, a pochi chilometri di distanza, dove ci sono altre 800 persone. Il prefetto in zona sta cercando di lavorare per svuotare questi due centri, ma ovviamente si sollevano proteste dal territorio. Andremo proprio a Bagnoli di sopra. Di immigrazione, tra l'altro, ha parlato oggi anche il presidente dell'INPS, Tito Boeri. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Gli immigrati sono fondamentali per tenere in piedi il nostro sistema di protezione sociale. Chiudere loro le porte costerebbe alle casse dell'INPS la perdita secca di 38 miliardi di euro per i prossimi 22 anni, una manovra aggiuntiva annuale. La stima del presidente dell'INPS, Boeri, che questa mattina ha illustrato qui alla Camera la relazione annuale. I lavoratori stranieri che arrivano in Italia sono sempre più giovani e bilanciano in parte il calo delle nascite, la minaccia più grave alla sostenibilità del nostro sistema pensionistico, ha detto Boeri. Ma sentiamo un passaggio del suo intervento. Abbiamo perciò bisogno degli immigrati e soprattutto di contribuenti immigrati. Impedire loro di avere un permesso di soggiorno quando sono in Italia è la strada sbagliata, perché li costringe al lavoro nero e li spinge nelle mani della criminalità. Al contrario, le regolarizzazioni sono state il più potente strumento di emersione del lavoro nero in Italia sin qui attivato e hanno avuto un effetto duraturo sul comportamento lavorativo degli immigrati. 4 lavoratori regolarizzati su 5 erano contribuenti attivi del nostro sistema di protezione sociale anche 5 anni dopo la loro regolarizzazione. Il numero uno dell'INPS ha poi chiesto la piena applicazione delle riforme. È arrivato il momento per l'introduzione del salario minimo nel nostro ordinamento. Le premesse ci sono. Ha rivendicato poi una gestione virtuosa dell'istituto, proposto di cambiarne il nome in Istituto Nazionale di Protezione Sociale, dal momento che, ha detto, solo 150 delle 440 prestazioni erogate sono di tipo pensionistico. E da Roma è tutto. Grazie dunque ad Alessandra Schepisi anche per questo aggiornamento. Siamo al fronte internazionale che ci porta in Corea. Corea che oggi ha lanciato un nuovo missile. Oggi è il 4 di luglio, sul giorno delle celebrazioni per l'indipendenza, negli Stati Uniti cala l'ombra del clamoroso annuncio della Corea del Nord di aver testato con successo per la prima volta un missile intercontinentale in grado di colpire il territorio continentale americano. Il missile, denominato Hwasong 14, lanciato in mattinata, le 2.40 ora italiana, ha percorso solo 933 km in quanto la traiettoria è stata calcolata al massimo angolo acuto possibile, raggiungendo un'altitudine massima di 2.802 km e cadendo nel Mar del Giappone, nella zona economica esclusiva nipponica, dopo 39 minuti. Il leader nordcoreano Kim Jong-un era presente al lancio, che ha ordinato di persona. Il presidente americano ha reagito immediatamente con due tweet un po' strani. «Ma questo qui non ha niente di meglio da fare nella vita?» ha scritto Trump riferendosi a Kim, per poi aggiungere che è difficile che Corea del Sud e Giappone sopportino più a lungo e che forse la Cina si muoverà più decisamente e metterà fine a questo nonsense una volta per tutte, con il punto esclamativo finale. Una reazione dunque un po' strana, perché non dice al momento cosa gli Stati Uniti intendano fare. Di sicuro al prossimo G20 la questione nordcoreana sarà al centro dell'agenda collettiva, in un momento molto delicato anche per i segnali di deterioramento dei rapporti tra Pechino e Washington. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tokyo. Siamo alla cronaca italiana. Beh, la settimana scorsa vi abbiamo raccontato del rapporto della Direzione Nazionale Antimafia, che raccontava come la 'Ndrangheta stesse diventando sempre più potente e fosse sempre più dentro allo Stato per certi versi. Un'operazione avvenuta oggi proprio contro la 'Ndrangheta sembra confermare tutto ciò. Con l'operazione Mandamento Ionico, la DDA Regina è riuscita definitivamente a scoprire come funziona il tribunale dell''Ndrangheta e quali sono le regole che si applicano quando ci sono faide tra le diverse famiglie. Un risultato raggiunto grazie a migliaia di intercettazioni e a 116 fermi, operati da un vero esercito di carabinieri, più di 1000, impiegati per sferrare un duro colpo a ben 23 cosche mafiose operanti nella Locride, dove interi centri abitati sono stati letteralmente assediati. In tutto gli indagati sono 291, ai quali sono complessivamente addebitati 140 capi di imputazione. Sentiamo il procuratore Federico Cafiero De Rao. Vi sono reati di intestazione fittizia, quindi di imprese, reati di truffa in danno della GEA, reati di estorsione numerosissimi, tanto che imprenditori sono costretti a versare anche il 10% del lavoro che svolgono. Confermata la centralità di famiglie storiche come quella dei Pelle, particolarmente attiva sul fronte delle estorsioni per la costruzione di qualunque opera pubblica, le cosche si sono infiltrate anche nella costruzione del tribunale di Locri. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. Sempre da questi microfoni, sempre ad effetto giorno, nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato la vicenda della ragazzina di 15 anni in Campania, costretta a lasciare il suo paese, a trasferirsi in Germania dopo le violenze di gruppo subite da una serie di coetanei perché era stata abbandonata. Una storia simile, una storia di violenze nei confronti di una ragazzina di 12 anni, arriva da Bari. Da diversi mesi, cinque giovanissimi di età fra i 13 e i 17 anni abusavano di una ragazzina dodicenne. A smascherare il branco i carabinieri del quartiere di Santo Spirito a Bari. I militari hanno eseguito la misura cautelare di collocamento in comunità nei confronti di due diciassettenni baresi. I due ragazzi, secondo l'accusa, sono responsabili, insieme ad un quindicenne rinviato a giudizio e a due tredicenni non imputabili, di ripetuti abusi sessuali ai danni della ragazzina. Sono stati i genitori della stessa vittima a sporgere denuncia dopo che la ragazzina ha raccontato loro ciò che stava subendo. I cinque la costringevano a violenze di ogni genere, la riprendevano coi cellulari e poi la minacciavano di diffondere i video degli abusi. Nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Bari, i carabinieri hanno perciò messo sotto controllo i telefonini dei cinque e hanno potuto così accertare quello che stava accadendo da tempo. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cambiamo decisamente argomento, veniamo alla tensione politica che si concentra in queste ore sul decreto banche. Vincenzo Miglietta, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Tensione politica in realtà concentrata soprattutto all'interno del Partito Democratico. Domani in un'assemblea del gruppo alla Camera si parlerà proprio del provvedimento Salva Banche Venete, tornato in primo piano dopo la presa di posizione di Michele Emiliano, che ha aperto il fronte del no al decreto con una lettera inviata ai parlamentari Dem. All'assemblea parteciperà il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Domani, a quanto si apprende, si dovrebbero valutare eventuali modifiche da apportare al decreto, anche se la maggioranza del partito è favorevole a lasciare il testo immutato. I margini di intervento sono comunque molto esigui. Il decreto è arrivato infatti in Parlamento sostanzialmente blindato, perché oltre ad esserci il via libera di Bruxelles sul testo così come è stato scritto dal governo, anche Intesa San Paolo ha detto che se verrà modificato l'impianto farà decadere l'accordo per l'acquisizione dei due istituti veneti. Domani intanto la Commissione Finanze dovrebbe avviare le votazioni sugli emendamenti, ne sono stati presentati circa 700, oggi c'è il vaglio dell'ammissibilità per arrivare a chiudere poi giovedì in aula alla Camera. Il decreto è atteso lunedì 10 luglio. E per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie dunque anche a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Come già diciamo nei titoli, sembra essersi chiusa la telenovela Donna Rumba, e come in parte avevamo anticipato con il nostro Dario Ricci da qua, non era escluso che si chiudesse esattamente in questo modo, ossia con Donna Rumba che firma col Milan. Vicini vicini, praticamente è fatta. Manca solo la firma, una firma d'oro, visto che parliamo di un contratto quinquennale di 6 milioni a stagione. Per un ragazzo di 18 anni, bravo finché si vuole, ma sempre un ragazzo, una montagna di quattrini. Alla fine il bravo Donnarumma, come Lessi, torna a casa. Anzi, non essendo di fatto mai andato via dal Milan, resta nella casa rossonera. L'operazione dovrebbe concludersi oggi con la firma. C'è anche una doppia clausola: 100 milioni se il Milan arriva in Champions League, 50 se Montella manca l'obiettivo stagionale. Si conclude col lieto fine, quindi una vicenda che ha diviso tutto il mondo milanista e non solo quello. Una vicenda di cuore, ma soprattutto di portafoglio, da cui il diabolico Raiola, l'agente che tutto può e tutto dispone, emerge come deus ex machina del moderno calcio liquido. Anche Donnarumma, o Dollarumma, come dicono i maligni, esce rafforzato. Con questo contratto diventa il terzo portiere più pagato del mondo. Il resto lo diranno i fatti, che come si sa, nel calcio, non sempre hanno una logica. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia e inizieremo proprio parlando di immigrazione. Andremo al Brennero, andremo a Bagnoli di Sopra, in Veneto, e poi nel corso della trasmissione parleremo anche di Gallipoli, ma in questo caso non per l'immigrazione, per altri stranieri che arrivano, almeno stranieri rispetto a Gallipoli. I turisti, turisti che si comportano male, così l'amministrazione e gli albergatori decidono di stilare un accordo, ne parliamo tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati parecchio di immigrazione, ci torneremo tra un attimo, della relazione annuale dell'INPS, nella quale lo stesso presidente Boeri parla appunto di immigrazione, dice che fermare gli stranieri ci costerebbe 38 miliardi, costerebbe 38 miliardi alle casse dello Stato e della Previdenza, della Corea che lancia il suo primo missile intercontinentale, di una grande operazione contro la Andrangheta sulla quale torneremo tra poco, e anche di Gigio Donnarumma. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, mentre siamo sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, così come sulla pagina Facebook di Radio 24, in diretta video. Ci sono sempre i numeri per contattarci via SMS, WhatsApp 349-238-6666, dove ci scrive tra l'altro Massimo da Cagliari, e prendiamo spunto dal suo SMS proprio per iniziare il nostro giro per l'Italia. Dice: ricordiamoci che il paese che sta mandando i blindati alla frontiera col Brennero è un paese che ha un premier socialdemocratico e un presidente verde, e parliamo dell'Austria e andiamo appunto sul Brennero. Arno Compacer, il presidente della provincia di Bolzano, torna ai nostri microfoni. Buongiorno Compacer, bentornato. Buongiorno, buongiorno a voi. Eccoci qua. Come la prendete questa cosa, quest'atto dell'Austria? Tra l'altro il nostro paese, il Ministero degli Esteri, lo ricordiamo questa mattina, ha richiamato l'ambasciatore austriaco proprio per avere dei chiarimenti a fronte del fatto che stanno arrivando dei blindati sul confine. Come la leggete questa cosa, Compacer? Beh, innanzitutto bisogna dire che il comunicato del ministro Doskozil rappresenta poche novità, perché stiamo assistendo negli ultimi mesi, diciamo, a un susseguirsi di annunci di questo tipo, che l'Austria è pronta a attivare controlli serrati, a intensificare attività di controllo, che impiegando, se ove fosse necessario, anche l'esercito. Questo, diciamo, è già stato ampiamente comunicato da vari rappresentanti politici di tutti i partiti austriaci, per quello c'è poco di nuovo. Io credo che sia dovuto soprattutto al fatto che il tema è ritornato sulle prime pagine, ovviamente, a livello europeo, dopo la richiesta anche dell'Italia, diciamo, di una maggiore solidarietà della parte della comunità europea nell'affrontare questo tema, e ovviamente è dovuto anche al clima elettorale al quale si assiste in Austria, perché in autunno si vota in Austria. In autunno si vota in Austria, e appunto, come diceva lei, c'è anche evidentemente un effetto mediatico, perché la cosa torna sulle prime pagine, ovviamente torna anche sulle prime pagine dei giornali austriaci, e quindi si mandano i blindati. È un po' questo il concetto. Ma bisogna dire che la situazione sul Brennero è assolutamente sotto controllo e tranquilla, cioè i numeri non sono aumentati, anzi sono molto bassi e stabili, non ci sono transiti illegali verso nord. Questo lo conferma anche addirittura l'ufficio competente austriaco, cioè che il problema attualmente non si pone, che i controlli che si stanno svolgendo adesso nell'ambito Schengen, perché già anche il regime Schengen, dobbiamo ricordarlo, prevede la possibilità, diciamo, di sorvegliare, di controllare anche i confini interni. Questo sta avvenendo in una ottima collaborazione tra le forze dell'ordine italiane e austriache, e questo sta dando ottimi risultati. La situazione è assolutamente sotto controllo e per quello diciamo non ci sarebbe neanche bisogno adesso di attivarsi. No, perché compace, mi scusi se la interrompo, in effetti è proprio quello che ci siamo raccontati fino a poco tempo fa, cioè 2 anni fa ci fu il momento di grande crisi, se vogliamo di grande emergenza, anche se vogliamo di grande narrazione su quello che stava avvenendo e al confine con l'Austria. Sul Brennero proprio a trovare. Esattamente, sul Brennero si è trovata una soluzione, un accordo, ce lo ricordiamo tutti quanti. Quello che le volevo chiedere è proprio come stanno andando le cose anche da quel punto di vista, perché l'accordo era molto preciso, si era stabilito che ci potessero essere dei controlli piuttosto serrati anche sui treni, un'organizzazione migliore e più stringente al confine, ed è così che funziona, sì, adesso. Io no? Ho avuto l'occasione anche di accompagnare il collega Platter, governatore del Tirolo, un incontro che ha avuto al Ministero degli Interni e anche col Ministro Alfano, dove lo stesso Platter ha fatto i complimenti al Ministro, diciamo, per l'ottimo lavoro svolto, perché i controlli hanno dato proprio i risultati auspicati e perciò la situazione è molto tranquilla. Ripeto, anche nelle ultime settimane è stato così, si sta facendo proprio quello che si era promesso allora. E anche questo è un motivo per il quale anche la Commissione europea fin d'ora non ha autorizzato nessun tipo di controllo che vada oltre, diciamo, il regime normale Schengen. E anche questo, diciamo, non conferma del fatto che la situazione è assolutamente sotto controllo. La ringrazio, grazie ad Arno Compace, il presidente della provincia di Bolzano. La ringrazio, e agli ascoltatori che scrivono: allora Spezia non capisci, loro non li vogliono. Ma non avete capito voi, quello che Compace ci ha detto è che in questo momento dall'Austria, dal confine col Brennero, gli immigrati sono 2 anni che non passano, e quindi la mossa, per chi ulteriormente ce lo chiede, che dice se era tutto sotto controllo, che bisogno c'era dei carri armati, è quello che ci ha spiegato Compace. In autunno in Austria si vota, e quindi è una mossa elettorale, perché la cosa è ritornata in termini di pressione mediatica anche sui quotidiani austriaci. Un luogo nel quale invece la pressione c'è e permane da questo punto di vista è un'area del Veneto che va idealmente da Bagnoli di Sopra a Cona, e siamo nel raggio di quanto? Una decina di chilometri. Roberto Milan, sindaco di Bagnoli di Sopra, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Meno di 10 chilometri, circa 6 chilometri dal centro migranti della provincia di Padova, Bagnoli di Sopra, con 800 migranti, e il centro migranti di Cona con oltre 1.400-1.500 migranti in provincia di Venezia. Sì. In un'area che coinvolge 3 comuni, con Agne, comune di Agne in mezzo, con circa 10.000 abitanti complessivamente e oltre 2.000 migranti in questo territorio. È l'esempio più negativo di tutta Italia di come viene gestito malamente, sì, ahimè, la questione, il fenomeno migratorio. Sì, l'altro giorno siamo tornati a Cona, nella quale base di Cona, dopo tante promesse che sono state fatte, hanno continuato a inviare dei migranti, hanno detto svuoteremo il centro di Cona perché è inaccettabile non solo per la popolazione locale ma anche per le persone che si trovano dentro, che si trovano in una condizione appunto inaccettabile. E più o meno lo stesso discorso avevano fatto con voi, quando poi abbiamo scoperto, l'ha denunciato lei 3 o 4 giorni fa, che hanno scaricato delle persone con un pullman praticamente in mezzo alla strada. Sì, in una zona industriale, donne, ragazze e bambini scaricate appunto in mezzo ai rifiuti, come rifiuti, nella zona industriale del paese vicino al paese di Conselve. In tutta la provincia di Padova non è stata trovata una struttura per accogliere queste bambine e queste donne, e ovviamente hanno trovato solo la base, ex base di Bagnoli come luogo. Certo. E questo assolutamente è inaccettabile, perché scaricare il peso dell'immigrazione dell'intera provincia di Padova sul comune di Bagnoli, 3.600 abitanti, oltre 800 migranti, e riempire ancora di più questo luogo che invece dalle promesse di Alfano alle promesse di Minniti doveva essere alleggerito e chiuso in breve tempo, si invece continua ad aumentare i numeri. Non c'è nessuna logica su questa gestione, se non cioè magari probabilmente indagherà la magistratura della malaffare, ma questo insomma non è compito nostro. Noi dobbiamo solo dire che così a Bagnoli, a Cona e questa zona del Veneto è già oltre i limiti di sopportazione e quindi meritiamo assolutamente soluzioni a brevissimo tempo, che è l'alleggerimento rapido e la chiusura. L'alleggerimento rapido e la chiusura. Su questo va detto che il prefetto sta cercando delle soluzioni, incontrando opposizione anche Milano da parte dei suoi colleghi. Se non sbaglio, si sta pensando a qualcosa nell'area di Porto Gruaro. Però, insomma, mi sembra che sia piuttosto complesso, perché in molti temono di trovarsi nella situazione nella quale vi trovate voi. Ma guardi, se prima non si mette mano all'origine di questo flusso migratorio, quindi a distinguere tra il migrante economico e il profugo politico, come tutta l'Europa sta facendo e sta chiedendo all'Italia, non ci sarà una soluzione, perché sfido qualsiasi governo a fronteggiare 10-15 mila sbarchi la settimana, ecco, e posizionare in territori. Territori, Veneto, Bagnoli, Bassa Padovana e provincia di Venezia sono già oltre il limite di sopportazione, proprio perché non c'è un'alternativa se non allocare in centinaia, in posti con centinaia di migranti, ecco, alternativa che può essere l'accoglienza diffusa o distribuzione nei territori omogenei. Ecco, sì. Quindi merita assolutamente attenzione, ma non è che sta sbagliando l'Europa intera. Io avviso che probabilmente è l'Italia che non sta ascoltando l'Europa, che l'Europa sta dicendo: guarda, Italia, stai troppo accogliendo troppi migranti economici, ma sta alla luce degli occhi, insomma, i bengalesi, adesso a Bagnoli sono arrivati i bengalesi, cioè dall'India, dove ci sono oltre un miliardo di popolazione, ecco, se arrivano persino dall'India, ecco, cioè, non abbiamo solo gli africani, ma abbiamo anche gli indiani, ecco, che stanno arrivando nei nostri centri. Quindi sì, assolutamente serve un cambio di rotta drastico, opportuno, lo dice Macron, lo dice l'Austria, lo dice l'intera Europa, ed è questa l'unica strada da perseguire. La ringrazio, grazie Roberto Milan, sindaco di Bagnoli di sopra. Qualcuno dice grazie, grazie, buona giornata. Qualcuno dice: ma in Molise, si cita sempre il Molise a sproposito, ma in Molise non va nessuno. No, il Molise pratica in realtà l'accoglienza per le dimensioni che sono consentite allo stesso Molise. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo e poi andremo a Gallipoli per una storia un po' più leggera. Gallipoli che cerca di lottare come tanti contro i turisti un po' troppo invadenti e un po' scortesi. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli: i migranti, l'Austria manda i blindati al confine con l'Italia, Francia e Spagna negano i porti, richiamato l'ambasciatore di Vienna dalla Farnesina. Fermare gli stranieri ci costerebbe 38 miliardi, dice il presidente dell'INPS. Boeri invoca anche l'introduzione del salario minimo. Le premesse ci sono. La Corea lancia il suo primo missile intercontinentale. Possiamo arrivare ovunque, dice il regime. Trump si rivolge alla Cina, li fermi una volta per tutte. Qua lo Stato sono io, diceva uno dei boss dell''ndrangheta intercettati e arrestati questa mattina, 116 i fermi. Telenovela finita, Gigio Donnarumma starebbe per firmare col Milan, 6 milioni a stagione. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo e proseguiamo il nostro giro per l'Italia, non prima di aver dato un paio di risposte a SMS, messaggi su WhatsApp che arrivano, tra l'altro sempre, io questa è una cosa che veramente non capisco e ve lo devo dire, sempre con questi toni brutali, violenti, informati prima di parlare. Allora, il Molise, il tema del Molise, ci scrive un ascoltatore: il Molise ha meno clandestini, meno immigrati, tutti anche in rapporto alla popolazione. È falso, il Molise in termini in rapporto alla popolazione ha i maggiori numeri di accoglienza anche rispetto alla Lombardia, al Veneto e a tutto il resto. Se vogliamo parlare di regioni piccole, quella che accoglie di meno almeno fino a qualche tempo fa, quella che accoglieva di meno era la Valle d'Aosta. Quindi mi sono informato prima di dire le cose, il Molise fa accoglienza. Spezia, sei proprio ignorante, il costo INPS, capiresti che nell'arco, per i mancati ingressi emigrati, sarebbe nell'arco di 20 anni, scrive Bruno da Pistoia. Sì, lo abbiamo detto nel servizio, ma era un titolo, nel titolo abbiamo semplificato, così ci chiariamo per bene su ogni singola cosa. In tutto ciò, in tutto questo Spezia sei ignorante, eccetera eccetera, un omaggio dovuto all'ascoltatore che sulla pagina Facebook ogni giorno ci segue nella diretta video, ed è Bruno, e che con cortesia gentilmente dice: buongiorno Simone, ben trovato, un salutone a te e ai tuoi ascoltatori. Un omaggio a Bruno, che in tutto questo ci mette un filo di gentilezza che ogni tanto non ci sta male. Allora, salutiamo, Emanuele Piccinno, che è l'assessore alla creatività, turismo e spettacolo e commercio di Gallipoli. Buongiorno assessore, benvenuto. Sì, buongiorno a voi. Allora, qua leggiamo dal titolo della Repubblica: la battaglia di Gallipoli alla movida selvaggia, via i turisti maleducati. Avete fatto così, prendiamo anche un argomento un po' più leggero, cioè parliamo comunque di gente che viene da fuori, ma in questo caso non immigrati, ma gente che viene a divertirsi. Avete firmato un accordo con gli albergatori che fa sì che, come funziona, i turisti vengono marchiati, quelli che si comportano male? No, noi stiamo cercando di portare un turismo d'élite, ma non vogliamo perdere il turismo giovanile. Stiamo cercando di far rispettare le regole, che a volte mancano. È questa la... E come lo fate? Stiamo attivando dei controlli che fino a poco tempo fa non ci sono stati. E poi? E quindi praticamente dopo che si fanno i controlli vediamo la situazione, adesso sta migliorando, e quindi stiamo cercando di, le regole devono essere rispettate, dobbiamo dire alle persone che vengono nella nostra città di rispettare le regole. Questo. E quindi l'idea è cosa fare? Di fare degli specie di DASPO per chi si comporta male, cioè di cacciarli via dalla città? No, non è che noi possiamo individuare chi si comporta male e chi si comporta bene, cioè questo non è che noi facciamo diamo delle direttive, facciamo delle ordinanze che poi devono essere rispettate, devono essere controllate dalle forze di polizia. E c'è un vademecum che avete stilato e che verrà distribuito agli albergatori, ho capito bene? Sì, l'abbiamo già distribuito non solo agli albergatori, anche ai titolari delle strutture turistico-ricettive che sono presenti nel nostro territorio, e quindi stiamo cercando di mettere un po' a posto le cose. E mi scusi, nel momento nel quale il turista viene beccato che si comporta male, che cosa succede? Non è che il turista viene beccato che si comporta male, però un turista non può e non deve, secondo me, fare quello che vuole. No, secondo lei, assessore, secondo tutti, cioè su questo siamo perfettamente d'accordo, ma non ho capito, ci sono delle sanzioni poi per questi oppure no? No, ci sono delle sanzioni che vengono applicate ai turisti scorretti. Ci sono delle sanzioni che vengono applicate ai turisti scorretti. No, allora non avevo capito male, non ero impazzito. No, né la collega Chiara Spagnolo di Repubblica che ha scritto il pezzo. Quindi, ok, ci sono delle sanzioni. Che sanzioni ci sono per i turisti scorretti? Le sanzioni partono, diciamo, dalla multa e poi ci possono essere anche delle sanzioni penali. Bisogna vedere il turista Chiaro, se prendi a sassate un vetro, tutto sommato vai. Ma non vale solo per il turista, vale anche per il normale cittadino. Va bene, infatti, un episodio che è successo la scorsa notte, quando un immigrato ha tolto ad un turista, ha rubato un portafoglio con un telefonino. Vabbè, insomma, quello è un reato, quello è un furto. È un reato. Quello è un furto, assessore. Dove una consigliera comunale ha inseguito il ladro e l'ha fatto arrestare. Vabbè. La ringrazio, grazie Emanuele Piccinò, assessore alla creatività, turismo, spettacolo e commercio del comune di Gallipoli. Non l'abbiamo capita fino fino in fondo sta storia, e vedremo poi se riusciremo a tornarci successivamente, non solo su Gallipoli ma un po' su tutte le città. Insomma, ci avviciniamo al periodo più intenso delle vacanze, molte città stanno facendo delle ordinanze per rendere un po' più civili i turisti, ne abbiamo parlato molto anche la settimana scorsa. Ritrovate su tutto questo anche il viaggio che abbiamo realizzato all'interno dei nostri giornali radio e anche il reportage andato in onda sabato mattina su www.radio24.it proprio su questo tema e anche sul tema dei flussi turistici. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.